Siamo in missione per conto di Dio. Mattino di Luca Telese. Tu l'hai visto ieri Mario? Certo che l'ho visto, non mi nego nessuna sofferenza. Il primo arresto del neodeputato regionale De Luca dell'UDC che sostiene Musumeci per evasione fiscale, si voleva candidare sindaco a Messina in galera! Detto questo, eccoci qua. Si comincia bene, direi. Cominciamo a scaldarci. Hai visto, caro fratello? Yes. Ci ascolti tutti i giorni? Sì, tutti i giorni vi ascolto. Ma bene, così sembra ottimo. L'espiazione di una pena. No, è importante. Sai, all'ergastolo tutti i giorni. No. Quando avevo un rapporto extra giornalistico con Renzi, prima delle primarie del 2012, di interlocuzione personale, certo. La gente che stamattina sta andando a lavorare da 1 a 10, ma quanto minchia gliene frega? La risposta alla sua domanda sono io. Renzi mette insieme Grillo e Andreotti. Il problema è che la politica è troppo importante per essere lasciata solo ai professionisti della politica. Pronto? Questo treno è maledetto. Come uno che vince il biglietto alla lotteria e poi lo butta nel tombino. Come le cavallette, come le locuste, no? I segni biblici. Ma santo Dio, ma non avete niente di meglio da parlare? Ho capito, a te non ti piace o presepe. Ultimo ora, arrestato per evasione fiscale il deputato regionale De Luca dell'UDC, appena eletto e già ai domiciliari. Meraviglioso. Complimenti, ma non mi complimento per quello che sento. Io ho fatto bene, io ho fatto qui, io ho fatto là, io ho fatto su, io ho fatto giù, io sono qui, io sono là, io sono bravo, io sono quello, io sono bravo. E io vado esattamente a buttarmi in un buro, mi sembra. Sarebbe stato bello e anche spettacolare. Popolo dei già svegli, buongiorno! Che giornata di guerra, che giornata di notizie incredibili per l'informazione, per la politica, per la cronaca. Cade un altro ministro a Londra, out of card, sospeso per le molestie e le accuse a Kevin Spacey. Continua nella realtà e continua anche in Italia. De Luca, lo avevamo raccontato, è arrivata la notizia in diretta, lo avete sentito ieri mentre parlavamo, adesso arrivano le carte dell'accusa. E non sembra che ci sia molto fumus persecutionis, falsifica, raddoppia i conti, tanto è solo cipria. Insomma, le accuse sono pesanti e serie. E infine quell'incredibile immagine, è una foto sui giornali, è un video nella rete, è l'immagine di un uomo che con un manganello picchia un giornalista che gli ha fatto una domanda scomoda. Quell'uomo è un signore del clan degli Spada e sapete che oggi è la notizia che da Ostia è rimbalzata in tutta Italia, ponendo il tema del rapporto fra criminalità e consenso. Augusto Minzolini con noi, buongiorno. Buongiorno, ciao. Ma è vero che sei Yoda, la firma occulta del giornale? È mio cugino. Ah, che ne è un cugino con cui parli però spesso. Sì. E gli passi anche delle notizie. Abbiamo fatto spoiler, vedi? La firma. Ma perché? Come mai questo tuo cugino scrive per conto tuo? Beh, così, perché... Com'è nato? Beh, sai, molto spesso lo pseudonimo è una cosa anche abbastanza intrigante. Beh, certo. Per cui c'è quell'elemento lì, poi ci sono anche, diciamo, altri elementi. Tu sai che tutta la mia vicenda accusa, condanna, vicenda, sospensione, condanna, poi diciamo, il Parlamento che lì ha visto un fumus persecutionis, perché credo che non credo che sia successo tante volte che il Senato, anzi forse mai, addirittura contesti la decadenza, la respinga, però è rimasta, diciamo, una condanna alla storia dell'interdizione che sta per finire, e purtroppo in questo paese quando stai in quella condizione, diciamo, devi... Quindi il cugino ti aiuta fin tanto che sei interdetto. Che sono interdetto, ma detto questo c'è, cioè, un po' anche questo colpisce, perché sai che tutta la mia vicenda partiva dal presupposto che io ho contestato, che sono stato assolto in primo grado, ma in secondo grado mi sono trovato ad avere un giudice che per 20 anni mi ha fatto politica, rispetto sì, sì, a dove lo so, ero io lo all'epoca sappiamo. Era diciamo nella, nello schieramento opposto, Sinisi. Quindi già lì c'era diciamo un fumus particolare, un fumus politico. L'idea che su questa vicenda, che oltretutto nasce quando già io ho ridato i soldi, addirittura il giudice del lavoro mi ha ridato i soldi nel primo grado, ci fosse diciamo una condanna, diciamo una coda della condanna che intervenisse sulla mia possibilità di parlare, di dire, diciamo, di esprimere il mio pensiero, beh, la rende diciamo ancora più assurda, più paradossale, tenendo conto che poi tra parentesi io però tuttavia quando scade, quattro mesi. Non scrivi per il pubblico, scrivi per una testata privata. Bene, fra quattro mesi si riuniranno il cugino di Minzolini, Yoda e Minzolini. Per ora sono qui tutti e due a commentare il fritto misto di questa giornata. Vai! Elettrici con Lou Reed. Roberto Spada, non lo conoscevamo, ha spaccato il naso all'inviato di Nemo e poi lo ha inseguito con un manganello. Questa sequenza è meglio non vederla, ma l'audio dice tutto. Sono qua perché i giornali, e tu l'hai letti, scrivono il clan Spada con Roberto Spada sostengono Casa Pound. Il sostegno degli Spada ha fatto prendere a Casa Pound il 18% a Nuova Ostia. La tua speranza però è che con Casa Pound cambi qualcosa. Non me ne fotte in cazzo, non me ne fotte niente. Ma è tornato. È tornato, è due ore che sta qua. Fermo, ma è tornato. Apri il compagno. Ma me ne vado se me lo dici, no? Ma basta me lo dici con calma, me ne vado. Guarda che mai fatto, cazzo, mi hai rotto il naso. Ma io c'ho tutto il campo. Augusto, il primo commento proprio da ex direttore del TG1. Come mai questa immagine è diventata la prima notizia nazionale su tutti i giornali? Per la sua violenza, per la brutalità, per quello che sottende? Ma sai, mi colpisce molto perché... non credo che sia mai successo, diciamo, con tanta virulenza, diciamo, uno scontro con, tra un personaggio, una persona e un giornalista. In passato io ho visto al massimo sono stati, diciamo, è se vero. Mi ricordo bene, delle telecamere sono state rotte o cose di questo tipo, ma uno scontro fisico, cioè un'aggressione non c'è mai. Hai ragione. È un po' anche il segno dei tempi, E la violenza è indiretta, hai ragione, il disvelamento di qualcosa che conosciamo ma non avevamo mai visto accadere così con questa brutalità. Soprattutto la violenza è sulla persona, normalmente prima era solo strumento, cioè nel senso, io non voglio essere ripreso, non voglio rispondere, allontano la telecamera, e magari c'è qualcuno che l'ha proprio rotta, l'ha, certo, l'ha danneggiata. Però la telecamera, non il giornalista. Invece è proprio la persona, quindi c'è un salto di qualità. Gli uomini diventano cosa? Sta declinando, tu lo vedi, cioè nel senso i segnali sono terribili e forse il più terribile c'è, cioè questa impotenza, secondo me c'è un collegamento e anche in quella enorme astensione che c'è stata nel voto di domenica. Certo, allora ti fermo solo un attimo perché continuiamo dopo con più calma, però la prima notizia è questa, è il romanzo criminale che diventa romanzo del paese. Cateno De Luca su Facebook. Ho fatto due denunzie contro una parte della magistratura e gli organi inquirenti. Mi possono solo ammazzare, ma continuerò a testa alta a difendere la mia dignità e soprattutto a difendere tutti coloro che non hanno la forza e i mezzi per potersi difendere, che si sono ammazzati per la mala giustizia. Cateno De Luca non si farà macinare dal fango, fino a quando avrà l'ultimo respiro si difenderà in tutti i luoghi. Allora Augusto, non so se hai letto già le carte, le cose che trapelano sui giornali, su di lui sei garantista? Io guarda, io sono garantista perché essendoci passato, cioè, sono sempre garantista. Ci sono due aspetti che però mi colpiscono. Il primo, non so se è vero, però nelle dichiarazioni di ieri lui diceva che ha avuto già 14 provvedimenti che però si sono risolti in un bicchiere d'acqua, e questo un po' mi colpisce perché 14 non sono pochi. La seconda cosa è che io immagino, non è che stiamo parlando di un reato che nasce ora, è un reato vecchio, molto vecchio, perché poi ed è un reato di carte. Ma allora perché di fatto questo arresto, se c'erano i contorni e c'era la possibilità che si arrivasse a una decisione del genere, non è stato fatto prima? Per non inturbare la campagna elettorale, immagino, no? Fosse avvenuto in campagna elettorale, pensa che scandalo. Io sono d'accordo, però noi stiamo discontento di una questione che di fatto ripropone però il problema che una giunta, un governo di una regione in questo caso viene delegittimato il giorno dopo, e soprattutto nel rapporto con l'opinione pubblica quello che emerge, e sì, qui c'è, ma alla fine è sempre lo stesso, allora tanto valeva e il danno sarebbe stato minore se, essendoci la necessità dell'arresto, fosse stato prima. Addirittura. Influenzando sulla campagna elettorale. Ma secondo te, nel senso, in questi tre giorni è successo qualcosa che ha fatto maturare una decisione del genere nella magistratura? No, chiaramente era stata sospesa, ecco, questa è l'immagine. La terza polemica del giorno. Senti, usiamo Crozza Feltri per commentare il titolo shock di Libero. Buonasera. Buonasera Vittorio Feltri. I titoli di Libero, per favore, no? Basta con questi titoli, non è il caso. Ma guardi, tanto lei... poi c'è la sinistra al governo che fa il condono. Ma cosa c'è? È la notizia di oggi, le faccio vedere il titolo di Libero. Quale? Grazie al PD, caghi e non paghi. No. Allora, il titolo di cui si parla, avremo poi il direttore di Libero. Per stendere Renzi bisogna spararli. Ovviamente Libero dice che è una provocazione. Tu cosa ne pensi, Augusto? Provocazione un po' eccessiva. Sarà un po' eccessiva, però parti da un presupposto. Io mi ricordo un titolo simile che fu fatto su Messi, sul campione del Barcellona, e addirittura era interveniva dalla dichiarazione di un, credo, di un giocatore della Juventus. Allora, probabilmente, diciamo, può apparire eccessivo se portato in politica, ma fatto da Feltri, poi ho visto oggi la prima pagina e mi sembra che conferma questa idea. Era quasi una sorta di complimento a Renzi, è talmente forte lì dentro. Vabbè, questo, la facciamo che... passare così. Dai. E Salvini, De Luca si era proposto alla Lega. Sicilia insegna due cose: uno, che bisogna avere un candidato credibile; due, la cronaca che in queste ore ci insegna che le liste vanno fatte analizzando nomi, cognomi e guardando le persone in controluce. Quindi la persona arrestata ci aveva proposto una sua candidatura con noi e, nonostante i voti che portava, gli avevano detto no. Quindi se tutti avessero detto il no che abbiamo detto noi, probabilmente Musumeci avrebbe qualche problema in meno. Giorgia Meloni elogia la leadership bassa. Io sono una donna bassa, di destra, cioè, sono proprio una che per essere presa sul serio deve proprio dimostrare tanto, tanto, tanto, tanto. Guardi, l'ho citato spesso, Charlotte Whitton, famoso sindaco di Ottawa degli anni 50, quindi insomma, un periodo non facile, lei diceva, una donna deve fare ogni cosa due volte meglio di un uomo per essere considerata brava la metà. Per fortuna non è difficile. Questo purtroppo è difficile. È vero? C'è un po' di discriminazione in politica sulle donne? Beh, non so se c'è, però un dato è vero, che non c'è mai stato finora. Noi abbiamo fatto 20 anni di Seconda Repubblica, in cui il ruolo, diciamo, del candidato alla premier, alla premiership era importante, non c'è mai stata una donna. Se io non, se non sbaglio, o no? È vero. Non c'è mai stato. Quindi adesso non dico se c'è una discriminazione o meno statisticamente, però statisticamente questo è un dato. Allora fermatevi nelle macchine, fermatevi nel traffico, fermatevi a casa vostra, tenete lo spazzolino sospeso a mezz'aria, signori. Pappalardo canta il Giocajouè. Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray. Dovrebbero invitarmi, hanno però il terrore, perché se mi invitano a confrontarmi con Di Maio e con, con Renzi, come li annienterei a tutte e due, loro farebbero una figura pessima e perderebbero il posto. Vergognatevi, invitate il popolo, invitate Pappalardo. Allora era Radio Rock la concorrenza, ma non si poteva negare questo strepitoso documento sonoro. Co giocare! E Minzolini, dove eri quando c'era il Giocajouè? Cecchetto. Andavi in discoteca, confesso. Eri già. No, qualche volta sono andato, come no? Anzi, mi piaceva. C'è stato un periodo. Che andava in eri ancora che movimentista, era la fase Ecce Bombo. No. Era post movimentista. C'è stata una fase in cui... No, confessa tutto. No, puoi farlo a Radio 24, figliolo. Subito dopo, diciamo, la fase movimentista ci fu... perché se mi ricordo all'inizio non... se tu, diciamo, ecco, facevi politica nelle scuole, per dicendo, non andavi in discoteca. Certo, eri un criminale. Cioè. Successivamente invece ci fu un posto, poi credo che erano gli anni in cui, non so, D'Agostino cominciò a fare il DJ e via dicendo. E quindi hai avuto qualche trasgressione, hai iniziato a rifluire, come si diceva allora, erano gli anni della febbre del sabato sera. C'era una discoteca dove metteva la musica D'Agostino, si chiamava Taita. Ah, vedi. Bene, è stata chiusa, immagino, dall'autorità pubblica. Di Maio contro Antonino Monteleone, che ancora lo insegue sul duello, il duello TV. Quello è un pugile suonato. Ma si è un po' cagato sotto di farsi confronto. Ma dai, che termini usi, dai. Ma tu sei passato alle Iene, prima facevi il giornalista. Non è una fake news, Matteo Renzi ha un accordo per spartirsi la Sicilia e l'Italia con Berlusconi. Sì. Voglio un confronto TV dopo il 5, sì. Ci stai? Poi ieri abbiamo capito che Matteo Renzi non sarà più neanche il candidato premier della coalizione. Ma chi gliel'ha detto questo? Tutti i sondaggi lo ha detto dicevano, lui. Poi ha tirato la pietra e poi ha nascosto la mano. Come ti sei ridotto, Antonio? Hai capito, anche qui il giornalista è insidioso, viene un pochino pizzicato, ma voglio commentare con Augusto Minzolini questa decisione che sta lì un po' oscurata sui media. I debitori di Veneto Banca Popolare Vicenza restano secretati. Casini, i giornali insiste. Di oggi non le diamo noi ci preoccupiamo di essere seri noi, se altri non lo sono è un problema degli altri. Nella giornata di venerdì scorso hanno trasmesso l'elenco dei maggiori debitori insolventi. Segnalo che si tratta di atti che per espressa indicazione dei commissari liquidatori rivestono carattere riservato. È giusto che restino segrete queste notizie, Minzolini, da giornalista e da ex commissario potevi essere lì. Posso dirti una cosa? Io dico no, ma per un motivo molto semplice, perché se rimangono segretati, se tu fai una commissione d'inchiesta, ovviamente tu dai all'opinione pubblica l'idea che stai intervenendo, che stai facendo chiarezza. Certo. Ma il momento in cui tu dici faccio la commissione d'inchiesta, ma questo non lo faccio dico, chiarezza. È un po' paradossale, no? Nel senso, se hai deciso di fare un'operazione di questo tipo, chiamiamola un'operazione di verità, non puoi fermarti. Chiaro. Perché altrimenti, cioè, tu, quella domanda aumenta e il sospetto diventa ancora superiore, si moltiplica. Niente omissis, strade e torniamo con Augusto Minzolini e i già svegli. Facciamo un'avvertenza sindacale, è immorale alzarsi a... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... "24 Mattino". Già svegli. Io sono già sveglia per ascoltare la colonna sonora che fa da sfondo ai già svegli. Io il diesel l'ho trovato a 1,27 euro, ma mai così basso come dice Telese a 1,20 euro. Buongiorno, grazie. Appena trovo una certa pagina di un certo libro farò anch'io una chiacchieratina piccolissima. Ma i ringraziamenti, quelli subito. Bravi, ciao. Signore Luca, senti che mi è successo ieri mattina presto. Lugarlo Gasperone si è messo come al solito davanti all'usciolo. Quando sortivano le galline, te poteva battezzare una per una. Che era successo? Una gallinella si era rifiutata al gallo. E più il gallo insisteva, più questa lo beccava. Figlio mio, sei riportato un nonno. Mo ci manca che la gallinella mi denunci il gallo per molestie sessuali. Vabbè, è bellissima come dire, la poetica del pollaio. Anche questo arriva attraverso i già svegli. Augusto Minzolini, qual è il tuo bioritmo tipo? Qua ognuno confessa anche questi particolari intimi, privati. Cioè, che io non so come sono ancora in piedi. Cioè, come sono in piedi adesso, guarda, credo che sarà un una tantum. Perché, sei, diciamo, sveglio tardista. Sì, no, guarda, sai che cosa succede? Che leggo i giornali presto, poi un po' mi addormento. Ah, e questo è bello. È un meccanismo strano che poi oltretutto ho cominciato ad avere da qualche mese, soltanto che ormai è diventato proprio un'abitudine. Improvvisamente mi alzo e poi per me addormento immediatamente. Bellissimo, anomalo, non l'avevamo ancora visto. Perché non chiamate mai i giornalisti del Fatto Quotidiano? Protesta per la tua presenza, ma guarda che abbiamo avuto Gomez, girano tutti qui, non... è una lotteria in cui sentiamo tutti quanti. E volevo farti sentire, a proposito di cose strane, Maradona, ogni tanto ne fa una, è andato a giocare a pallone con Maduro. Viva Maduro! ¡Que viva Maradona! Somos todos soldados de Nicolás por haber resistido a un montón de embates de la oposición. Siamo tutti soldati di Nicolás per aver resistito all'embargo, e vai. Che pensi di Maradona politico, Augusto? Ma non so, è complicato. A parte il fatto che, ecco, se tu devi spiegare Maradona, devi spiegare soprattutto, diciamo, la mentalità di un sudamericano. In Sud America probabilmente delle cose sconcertanti per noi in realtà hanno una sua logica. Una logica sudamericana, questo è interessante. Arriva un messaggio e dice: dopo Lou Reed, se mettete i Velvet Underground, secondo me Minzolini si esalta. Ma perché, sei un fan dei Velvet Underground? No. Che musica senti? No, non li conosco, no, la sento, però conosco abbastanza bene. Qual è la tua musica? Ma normalmente... Il tuo disco feticcio? Ma che ti posso dire, c'è tutta la programmazione, malgrado... Adesso non dovrei dirlo, visto che a Panama esce quello che è, ma ci piacciono molto gli YouTube. Anzi, mi piacciono molto gli YouTube. Malgrado le disavventure fiscali di Bono. Vabbè, non cancelliamo la storia. Attenzione, Moccia, filosofo del contemporaneo, presentando il suo libro, il suo film Non c'è campo, tesse l'apologia della disconnessione. Per tanto tempo c'era un ponte, il ponte Corso Francia, c'era scritto io e te 3 metri sopra il cielo, che poi quello che si sono lasciati hanno scritto sotto io e te 3 metri sotto un treno. A quel tempo si prendeva un lucchetto, si metteva, chi si innamorava andava a Ponte Milvo e buttava, chiudeva il lucchetto e buttava la chiave nel fiume. Oggi invece è tutto diverso, notifiche, like, foto di qualunque cosa che fanno, tutto finisce online e vedo ragazzi camminare in continuazione con lo sguardo fisso sul loro telefonino. Stare sconnesso è un viaggio nel mondo reale, in quel passato che non è mai troppo tardi perché ritorni presente. Quanto sei sconnesso tu? Guarda, io non amo il telefonino, ma ormai il telefonino fa parte veramente di noi, e è difficile farne a meno, uno si sente addirittura perduto. Un po' ti ricorda diciamo la filosofia di Job, che diceva che doveva essere una parte della persona, quella fu la grande trovata dell'inventore dell'Apple. E realmente, se uno immagina, cioè nel telefonino ci metti tutto, è diventato un po' il diario, perché ci scrivi le cose che ti devi ricordare, dei codici che ti devi ricordare. È difficile disconnettersi, anzi, anche se di fatto, proprio perché c'è questa sorta di integrazione, se uno vuole tirarsi fuori dal mondo, forse perché questo, il mondo non gli piace, forse quella potrebbe essere una strada. Un personaggio che ha segnato la storia del cinema italiano, entrato in un corno d'ombra. Vittorio Cecchi Gori, senti, solo e triste, senti che malinconia. Ma oltre al cagnolino, ma chi si prende cura di te, Vittorio? Veramente io da solo, io sono sempre stato, ho fatto una vita alla grande, Poi dopo, adesso devo dire che sento un po' di tristezza, che avrei voglia di stare con una persona con cui lo guardi bene. A Eleonora Daniele, 75 anni, grasso, con maglione e sciarpa al collo, persino l'uomo che fu un re. C'è la decadenza nella vita, Augusto? Beh, sì, non è c'è la decadenza, se ognuno ha le sue la sua realtà personale e il suo destino. Molto spesso, diciamo, a me, ecco, quando ecco mi parli di quello che sta accadendo a Cecchi Gori, mi viene tristezza, ma non solo lui. E il problema è molto spesso che quando tu nasci, e nasci all'interno, quando già c'è un impero, perché lui nasce che ha un impero, quello del padre, poi diventa difficile amministrarlo. Diciamo, gestirlo, amministrarlo, soprattutto mettersi in sintonia con un mondo, specialmente se sei una persona fragile. Abbiamo solo un secondo, c'è un messaggio un po' aggressivo per me e per te che dice: ma Luca, come puoi eludere un provvedimento di interdizione? Sì, ma non è interdizione dalla vita. Augusto Minzolini e il suo cugino Yoda possono parlare, non sono interdetti dalla vita civile. Una tua risposta, Augusto, se vuoi darla in una parola. Quello che mi colpisce è quello di non vedere soprattutto nelle cose. Allora, anzi, sotto certi aspetti, il problema non è il mio. Perché se uno andasse a leggere esattamente la vicenda di cui sono stato protagonista, si accorgerebbe che quell'elemento di persecuzione politica, detto un giudice in una certa maniera, il relatore, c'era. Allora il fatto di togliermi, diciamo, la possibilità di parlare, di scrivere, è un'idea che conferma quell'elemento. La persecuzione. Lì.